Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se il buongiorno si vede dal mattino, voi come vi siete svegliati oggi? Oppure vi siete svegliati così? Sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto e il riso è menzognero. La donna è mobile, quale piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Siete di buon umore? Restate con noi, anzi vi chiedo di più, intervenite, fateci un po' da coach, da allenatore del buon umore. Ma restate con noi naturalmente se il vostro umore è nero, perché oggi proveremo a farvi cambiare colore. E a proposito di colore, il nostro numero verde è sempre a vostra disposizione. 800 24 00 24. Qui in studio Alessandra Faiella, che voi conoscete bene, scrittrice, attrice, comica, formatrice. E chi più ne ha più ne metta. Di che umore sei oggi? Ottimo, ma io seguo sempre diciamo gli studi americani che dicono che quando ci si sveglia di cattivo umore si deve indossare un sorriso come una sorta di vestito fiorito e questo aiuterà a condizionare il tuo umore. E io faccio sempre così, indosso questo vestito, a volte mi dicono cos'hai tesoro, una paresi? No, è solo un sorriso per tirarmi su. Un vestito a fiori, fiori, prati, erbe, qua con noi abbiamo il dottor Luca Voletti. Buongiorno. Buongiorno. Naturopata e anche membro del comitato scientifico di wellness. Quindi lei ci farà stare bene, lavoreremo naturalmente sul nostro umore. A volte siamo di cattivo umore perché abbiamo la pancia vuota, soprattutto alle 11:12 quel languorino, quel vuoto ci mette già di cattivo umore. Sì, in particolare se saltiamo, come fanno troppi italiani a dire il vero, la colazione, che è davvero, come dicevano le nonne, il pasto più importante della giornata. Dopo 8 e più ore di digiuno, saltare colazione, un caffettino veloce o farla 2 ore dopo in ufficio fa malissimo, perché provoca una serie di ricadute sull'assetto ormonale, in particolare gli ormoni del buon umore, quindi serotonina ed endorfine, che come dire, ci fanno partire male, stanchi, con poca vitalità e con l'umore raso terra. Posso chiedere subito una cosa veloce al dottore? Mio figlio vuol fare sempre colazione col uovo e bacon, è dannoso. È una colazione perfetta, protratta nel tempo forse, no, un po' troppo ricca di grassi, ma è un'ottima idea per esempio introdurre una fonte proteica, una delle poche abitudini se posso dire, che dobbiamo copiare dagli americani, che da un punto di vista gastronomico culinario non ci possono, però una è meravigliosa, sì, ed è la tradizione del brunch, breakfast più lunch, quindi colazione e pranzo insieme, salato e dolce. Abbondante, e soprattutto non lo dice mica la Bibbia che dobbiamo mangiare dolci a colazione, è un pasto come gli altri, introduciamo delle fonti proteiche e anche salate. Quindi se qualcuno vicino a voi è di cattivo umore, provate ad allungargli una polpettina, come si dice. 800 24 00 24, ci sono degli alimenti, dottor Avoledo, a cui sono riconosciute delle proprietà per migliorare l'umore, ma noi vogliamo andare oltre, non sono tanto gli alimenti in sé, ma come li abbiniamo. Sì, e in particolare questo abbinamento, soprattutto, è la cosa più importante in assoluto, di carboidrati, pane, pasta, pizza, brioche, merendine, eccetera, eccetera, non sempre sani, molto ricchi di zuccheri, però con una fonte proteica. Questo permette un rilascio degli zuccheri, un assorbimento molto più lento e non si ha un'ora dopo che si mangia cappuccio e brioche quel calo degli zuccheri che ti porta, guarda un po', a mangiare un altro cappuccio e brioche. Abbinate una fonte proteica ai carboidrati. Allora, facciamo così, coinvolgiamo i nostri amici da casa, lei ci dia un alimento e noi diciamo agli ascoltatori, provate ad abbinarlo. Bellissimo. Te ne do addirittura 3, scegli tu quelli che ti piacciono. Sono 3 cibi ricchi di triptofano, che è un amminoacido che è un precursore della serotonina nel corpo, quindi questo ormone del buon umore. Pesce, frutta in guscio, noce, nocciole, mandorle, pinoli, compagnia cantante. Ok. E uno degli elementi più demonizzati ma versatili della cucina italiana, che sono le uova, che non fanno alzare il colesterolo. Pesce, frutta in guscio, uova. Cercate l'abbinamento ideale per il vostro buon umore e chiamate subito all'800 24 00 24. Ma Alessandra, oltre che ad abbinare gli alimenti tra loro, il segreto del buon umore sta anche nel prenderci un po' meno sul serio. O se vogliamo tradurlo in altro modo, prendercela un po' con un po' di ironia, o forse autoironia. Certo, ma sì, come dico spesso nei miei laboratori, io faccio fare un esercizio, poi ne parleremo, molto utile, che è quello di parlare di sé in terza persona, come se si parlasse di un amico o di un'amica, e prenderlo in giro. Per cui se parlo di me dico: Alessandra, sì, una simpatica in gamba, però mamma mia è puntiglioso, sto sempre lì a fare le pulce a tutto. Parlare di sé come di un'altra persona, per guardarsi con distacco. Perché il trucco, perché si dice che l'umorismo, la comicità, l'ironia aiutano a vivere meglio, a stare meglio, perché permettono un distacco sano nel momento in cui siamo calati nel nostro dolore, nel nostro pathos, nella nostra sofferenza e spesso autocommiserazione. Non riusciamo a vedere anche gli aspetti divertenti anche di noi stessi, i nostri lati buffi, e imparando invece a sorriderne e a sorridere anche delle nostre tragedie con 3G, riusciamo anche a stare meglio, a prendere appunto un po' di distanza e a sorridere di quello che fino a un momento fa. Un esempio: quando noi raccontiamo una disavventura, una cosa brutta che ci è capitata, al momento mentre la viviamo ci vengono dei moti di rabbia, dei sorci verdi, i capelli dritti. Quando la raccontiamo riusciamo a riderne. Mi sono svegliata stamattina, c'era sciopero dei tram, sono uscita, piove, non avevo l'ombrello, e via via. Se la racconto con un certo distacco, perché magari mi è successa ieri, immediatamente vedrò che poi non è successo niente di così drammatico. E poi soprattutto usiamo la terza persona. Questa è la sfida di oggi, insieme all'abbinamento ideale per il buon umore. Gli alimenti sono, lo ricordo, pesce, frutta in guscio e uova, mentre la sfida che ci propone Alessandra Faiella è di raccontarci, di fare un piccolo ritratto, un nostro ritratto in terza persona. Qualcuno lo usa anche per parlare del partner, quello è meno corretto, tipo quel cretino di mio marito, ecco, davanti a lui. Però questo no, non è esattamente Parliamo di noi all'800 24 00 24. Dottora Voledo, provi lei a descriversi. Accidenti. In terza persona, che così diamo uno stimolo. Intanto io penso: non se l'aspettavo. Quel Luca Voledo è sicuramente persona determinata, affidabile, motivata e quant'altro. Ma in alcuni casi questo può diventare un difetto e risultare noioso o pesante. Pedante, secondo me. Pedante e un pochino barboso. Ecco, noioso. Proviamo con la Nicoletta. Diciamo. Nicoletta, dai, prova tu. Beh, la Nicoletta... Tu non hai difetti, come fai a fare questo esercizio? Per questo ho preso tempo chiedendo al dottor Voledo. Allora, siete pronti? Forse dobbiamo chiedere anche l'ora di Deborah Rosciani. Però in sostanza questa Nicoletta, che è carina, simpatica, ha un po' il pallino di voler far stare tutti bene. E c'ha il consiglio per tutti. E dice: ce la puoi fare. E guarda il bicchiere mezzo pieno. E non preoccuparti se oggi va male, domani andrà un pochino bene. Poi si interessa sempre di far star bene gli altri, e poi alla fine le manca la voce, non si fa i controlli, insomma. No, deve avere il ciabattino, va in giro con le scarpe rotte. Esatto. 800 24 00 24. Allora, le nostre due sfide naturalmente le abbiniamo a due libri di essere benessere, e abbiamo ritrovato due libri che vi possono piacere. Uno è Alessandra Faiella, Autostimami, breve corso di ironia per acquistare sicurezza di sé, vivere meglio. Spero che non sia esaurito, però. Sarà, infatti è esaurito. Io l'ho chiesto ad Alessandra di portarmelo in qualche riserva. Ecco, ma io ho detto: bene, allora è ancora più prezioso, quindi raccontatevi in terza persona, e il racconto più carino, più divertente, avrà anche il libro di Alessandra Faiella. Poi abbiamo invece per il nostro la sfida del buon umore abbinando gli alimenti un libro di Rossella Panigatti, Le emozioni parlano, e noi vogliamo le emozioni che ci parli il nostro buon umore. Ma se a volte il buon umore proprio è sotto i piedi, il sorriso non ci viene, che ne dite di provare con un esercizio molto molto semplice? Ce lo suggerisce il professor Giuseppe Alfredo Iannocari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, Nicoletta, ai suoi illustri ospiti e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Partiamo dall'occorrente, che deve essere assolutamente semplice, a portata di mano. Il primo consiglio che do è di ascoltare il programma Essere Benessere. Bravo, lì sì, vede, vede. Bravo, bravo. Per indurre a facilitare il sorriso si pensa che sia impossibile, un po' come farsi il solletico da soli. Invece è possibile, questa è la buona notizia. Come? Prendete una matita o una penna e mettetela per lungo tra i denti, allargando le labbra come quando si sorride. Se possibile fatelo due volte per 5 secondi. E magari davanti ad uno specchio, perché basta vedersi fare questo esercizio per raddoppiare la possibilità della risata. Ma certo. Sì, infatti è un problema parlare poi, eh. È un pochino un problema parlare. Non si deve parlare. Ecco, professore. Siamo tutti con la penna in bocca. Siamo tutti con la penna in bocca. Ma professore, quindi se noi sorridiamo con la penna in bocca sarà scomodo, ma qualche cosa arriva anche al nostro cervello, non solo al nostro cuore che si rallegra. Perché il sorriso richiede la contrazione dei muscoli facciali, che inviano dei segnali al cervello e lo informano che si è attivato lo schema del sorriso. Allora che cosa succede? Il cervello, quando riceve l'input della muscolatura facciale, che è in posizione di sorriso, si predispone in tal senso e attiva tutte le altre aree cerebrali coinvolte nel buon umore. Abbiamo degli studi fatti dall'Università di Stanford, condotti da Alan Reis, che ci informano che il sorriso attiva un centro specifico del cervello che è chiamato nucleo accumbens, che è deputato alla gratificazione e alla ricompensa. La cosa interessante è che questo centro fa parte del cosiddetto cervello limbico, cioè è una struttura molto antica che si è evoluta nel corso di milioni di anni. Questo conferma che il sorridere è stato selezionato dalla natura per favorire l'evoluzione della specie. Infatti, anche una ricerca condotta dall'Università del Maryland ha visto come il sorridere crea complicità tra le persone e addirittura anche attrazione tra i sessi. Attrazione, Alessandra. Beh, certo, chiaro, beh, è un sorriso smagliante. C'era anche quella pubblicità, se me lo dice così con quel sorriso smagliante. Non te la ricordi, sei troppo giovane. No, no, me la ricordo bene. Del dentifricio, è il sorriso smagliante, scherzi. Cioè, già basta non avere poi i denti cariati o delle un foglie di insalata sì, sul dente. Però, o la fiatella. Ecco, o la fiatella da lupo. Tolte tutte queste cose. Professor Iannoccari, grazie allora. Grazie a lei. Per un cervello sorridente, ricordate la matita. Dottora Voledo, però ci sono delle situazioni particolari che ci mettono di cattivo umore. Ad esempio, se abbiamo dormito male, no? Chi è che si alza volentieri e di buon umore? Nessuno. Oppure a pranzo, mangiamo troppo male, facciamo fatica a riprendere, ci viene la biocca, invece dobbiamo lavorare. O ancora una scadenza e la creatività è a zero. E anche qui ci sono dei suggerimenti. Beh sì, in questo caso allora vale la pena di essere causalisti, ovvero andare alle cause che sottendono i problemi dell'umore. Per esempio, se ci siamo alzati dopo una nottata tremenda, uno dei rimedi naturali più interessanti è il guaranà, che è una sorta di super caffè, una pianta amazzonica molto ricca di caffeina, che ha degli effetti stimolanti, tonificanti, perché fa produrre adrenalina e noradrenalina, che danno una sferzata al metabolismo. È un prodotto molto interessante, non privo di effetti collaterali, quindi l'uso è sporadico, proprio per tirarsi su una volta ogni tanto, perché avendo un grande contenuto di caffeina, appunto un super caffè in qualche modo, può dare ansia, tachicardia, eccitazione, quindi chi soffre di questi problemi non dovrebbe assumerlo, e anche avere una serie di interazioni farmacologiche. L'uso sporadico sì, quello continuato no. Mentre invece se il problema è una digestione difficile che ci ha spossato dopo un pranzo magari di lavoro e non riusciamo, come dire, a ritirarci subito su, per facilitare il processo digestivo una bella tisana fatta preparare dal erborista di fiducia a base di piante come rosmarino, genziana, liquirizia, finocchio. Genziana, dobbiamo ripeterle genziana, perché rosmarino, liquirizia, genziana, finocchio. Che sgonfia il finocchio. Finocchio sgonfia, la liquirizia migliora la digestione, in particolare a livello dello stomaco, rosmarino per il fegato e la bile. Io una volta mi sono ubriacata di liquore alla liquirizia, non è la stessa cosa. Se non era il problema della liquirizia, ma lì forse era il liquore. Ero di ottimo umore, infatti. Allora ricordatevi, descrivetevi in terza persona all'800 24 00 24, abbinate gli alimenti del buon buon umore, restate con noi e diteci anche che cosa vi sta andando storto, perché possiamo fare anche un esercizio che so che anche tu suggerisci, Alessandra, che è quella di elencare le lamentele. Ah, chi non cianze non tetta, dicono, sì, a Genova. Ma per superarle, però, perché la lamentela è veramente quanto di più negativo esista, perché è il contrario dell'assertività. Cioè, se io voglio qualche cosa, se io sono scontenta di qualche cosa, devo assolutamente trovare la soluzione, esprimerlo, parlare direttamente con le persone, vedere veramente quello che voglio. La lamentela invece è un hobby tipicamente femminile, devo dire, Nicoletta, perché noi siamo bravissime a lamentare. Sono queste si fanno, no? Soprattutto ai partner, perché tu vai sempre fuori, perché tu lavori soltanto, perché tu non mi porti mai fuori a cena, e quelle volte che mi porti fuori a cena e passa il filippino con le rose, dici no, grazie, tanto me l'ha già data. Ecco, quelle cose lì, praticamente, classiche delle allora, femmine. Intanto, buongiorno, io tengo in macchina una pallina rossa di gomma, piuma, me la metto sul naso, mi guardo e sorrido, così scrive Jenny. Un clown in macchina, e pensa anche, metterà il buon umore anche a quelli intorno a lui, perché diranno: ma chi sarà questo? Disinfettate le penne, ci scrive Eros. Grazie. Saluti. Eros. Mentre abbiamo Michele che ci chiama da Bergamo e subito dopo Chiara dalla provincia di Parma. Michele, do la precedenza a Chiara. Buongiorno. Perché? Chiara, perché è una donna. Chiara, buongiorno, faccio le preferenze oggi. Buongiorno, io chiamavo perché sentivo che prima parlavate della colazione, di come si imposta la colazione. L'abbinamento del buon umore, noi. Esatto. La dieta del buon umore. La dieta del buon umore. Ecco, io la mattina prendo solo un caffè latte perché non sono mai stata abituata a fare colazione, e poi un altro cappuccino durante la giornata, a volte anche al posto del pranzo. E nel corso della giornata a volte mi capita di essere di cattivo umore, di essere stanca. Credo. Comunque di... Ecco. Perché purtroppo per lavoro non ho mai il tempo. Come posso cercare di... Mangia, Chiara, mangia! È arrivato il momento di cambiare abitudini. Chiara, se vuoi qualcosa che non hai ancora avuto, ad esempio un miglior tono dell'umore, devi fare qualcosa che non hai ancora fatto. Per esempio... Per esempio, una colazione che non sia solo un cappuccio, una colazione fatta, ti racconto la mia, guarda, che è una colazione velocissima, quella che ho fatto stamattina, una bella tazza di mirtilli e lamponi, latte di costano, costano. E lei è ricchetto allora. Già quello. Coltivo mirtilli e lamponi. Una tazza di latte vegetale, fiocchi di mais e una bella manciata di mandorle. Ci ho messo 7 minuti. Io vomito però se mangio. Allora è un problema di abitudine. Non è chiaro che è chiaro, allora che Chiara, cercare... non... è chiaro che Chiara è chiaro che Chiara se non è abituata fa fatica. Ma innanzitutto prova i lamponi, le mandorle, il latte vegetale. No, non ce la faccio, dottore. Mi dia qualcosa. Si può trovare più... qualcos'altro. Io preferisco le uova col bacon a questo punto. Ma vabbè, vanno ancora meglio per certi versi, un pochino più lunghe da preparare. No, ma diceva Chiara che il problema è che di solito una mancanza di abitudine si alleggerisce la cena. Prova a mangiare una mela per 3 sere, poi vedi se la mattina non hai fame e pian piano aumenti il carico di colazione. E ricordiamo a Chiara che tra poco riparterà Mangia con me, per cui mangeremo insieme, parleremo di colazione e di abitudini, rimposteremo le nuove abitudini, perché quella Nicoletta, che è carina e simpatica, vuole sempre far stare sempre tutti bene, cambiare, e diventare un po' di bisogno di controllo, diciamo. Michele da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, le dico subito una cosa però, ho interrotto il lavoro un attimo perché mi ero seccato per un equivoco. Sono andato in macchina, ho acceso la radio, lei iniziava la trasmissione e ho trovato la maniera di ridere dell'equivoco e di passare al buon umore. Michele, sposiamoci. Senta Michele, sposiamoci. Grazie a lei, sposiamoci. Però sposiamo. Già. Cioè, che poi... Dica, siamo dica, qua. Dica. Ecco, le stavo dicendo gli alimenti che mi mettono allegria, simpatia al mattino. Un uovo sodo, però rigorosamente da una gallina non di allevamento, rigorosamente. Su 2 asciughe di salate, possibilmente prese dal pescatore che le fa, o meglio dalla moglie del pescatore che prende. Che più ciacciona. Con un griglio di noce sul rosso d'uovo. Tutto una colazione perfetta. Se volete davvero sposarlo, accomodatevi. È perfetta. Però posso dire una cosa, anche un piatto di lasagna a me mi mette di buon umore, è sbagliato. Ma assolutamente sì. Ma il momento migliore per mangiare la pasta, in teoria, sarebbe alla mattina. Ma va. Michele, grazie per essere stato con noi. Ci ha fatto tornare il buon umore e anche un po' di invidia. Di fame, perché che le acciughe che no, l'uovo sodo della gallina che conosce, le acciughe che portate direttamente dalla moglie del pescatore che magari è pure carina, buonazzona, simpatica, la noce a decorare l'uovo sodo. Vi informo che ho ricevuto ben 3 proposte di matrimonio via SMS al 349-238-66. Vedo che sei tutta ringalluzzita e anche una postura diversa. A questo proposito è importante sottolineare che anche la postura è importante per migliorare l'umore. Io faccio sempre fare nei miei corsi questo esercizio, faccio camminare le persone suggerendo cose cupe: ora dovete andare dal dentista, ora vi aspetta il capo ufficio che vi fa un mazzo così, e loro camminano per la stanza e pian pianino, mentre pensano queste cose, si chiudono, le spalle si abbassano, la camminata diventa lenta, incerta. Poi comincio a cambiare i miei suggerimenti, dico: adesso invece vi incontrate con la persona che amate, oppure rivedete un amico, e vedo queste cose miracolose, magia, i loro corpi trasformarsi e passare dalla posizione ingobbita, chiusa, dall'andatura svogliata a una postura eretta. E faccio fare questo esercizio proprio per far capire agli allievi come lo stato d'animo influenza il movimento, ma come anche il movimento influenza lo stato d'animo. Assolutamente sì, bellissimo quello che dice Alessandra. Diventa anche un trucco facile, adottabile da tutti, certo, per accedere velocemente a stati d'animo produttivi. Provate a aprire le spalle, respirare profondamente, alzare la testa e dire, come un bel sorriso indossato in volto, come dicevi, come nella puntata, e dire: sono depresso, sono depresso, sono depresso. Non ci riuscite, è un messaggio incongruente che mandate al vostro corpo. Modificando postura, modificate la fisiologia e anche l'umore. È un esercizio che si può fare tutti i giorni quando siamo giù di morale. Ricordate gli esercizi per oggi, per avere anche i libri della libreria di Essere Benessere, che fanno tornare il buon umore, Autostima, di Alessandra Faiella, che abbiamo abbinato alla descrizione in terza persona, al nostro profilo in terza persona 800 24 00 24, mentre l'abbinamento ideale, l'abbinamento del buon umore, quali cibi bisogna mettere insieme per avere un effetto tonico sul nostro umore, per ritrovare il sorriso, per, insomma, per tirarci un po' su, 800 24 00 24. E dato che leghiamo i cibi al buon umore e quindi anche alle emozioni, Rossella Panigatti, Le emozioni parlano, un libro della libreria di Essere Benessere. Abbiamo Gabriella da Bologna, poi Mirko da Verona. Buongiorno Gabriella, benvenuta. Buongiorno. Come vi ho detto, io canto se sono serena, ma scrivo se il cuore è in pena, per cui sono diventata quasi una poetessa, anche abbastanza pressata. Cioè, ci rido su, perché dopo che ho scritto, che ho esternato magari la rabbia, quel malumore, e dopo mi sento un pochino meglio. Quello che dicevo prima, nei momenti in cui prendiamo, ho trovato un altro, ho trovato un altro che ti fa la proposta di matrimonio. Fantastico, oggi guarda, veramente. Perché ti portiamo noi fortuna. E fa anche il ciclista. Ma vedi, questo è il bello della radio, che non vedendo, scherzo. E invece mi possono vedere su Facebook. Che battutaccia. Gabriella, vede le amiche, invitare le amiche. Io adesso qua dovrei scrivere per un'ora. No, ascolti, le dico soltanto, non è molto lunga, è breve. Perché in un momento di rabbia proprio, che l'ho scritto, che avevo voglia di urlare, di spaccare, voglia di aprire la porta e poi scappare. Il cervello è in continua ebollizione, scarto e riscarto mille soluzioni. E come una cavalla imbizzarrita calcio e ricalcio i muri alla ricerca di una via d'uscita. Brava poi... Gabriella! Mi piace questo messaggio della cavalla. La cavalla imbizzarrita è bellissima. Grazie Gabriella che ci ha chiamato da Bologna. Mirko, davvero una buongiorno. Buongiorno, Io vedo che ha avuto una specie di soffio da cavallo, anche lei. Sono un po' raffreddato. Mi dica. Allora, io ho dei ricordi più che, diciamo, dei piaceri. Da bambino uscivo al mattino presto nel periodo estivo con mio padre e andavo in stalla ad accudire gli animali. Sì. Il bello di questo era che poi verso le 7:30-8 si rientrava in casa a fare la colazione. Allora, è una colazione del buon umore? Mi dia l'abbinamento ideale, Mirko. La nostra colazione era pane e latte. E poi c'era le uova strapassate. Ottimo. Quello ci dava Una bella grinta. Una bella grinta. Per lavorare in campagna e forse anche un po' di buon umore. Assolutamente c'è sì, una piccola correzione, se qualcuno volesse ripetere questa colazione, il pane, bene che sia integrale, che produce meno picchi glicemici e quindi regola meglio anche gli ormoni di buon umore, e aggiungerei una fonte di frutta fresca, per esempio, magari in apertura di colazione. Questa colazione che comunque ha dei pregi notevoli. Però se nonostante tutto proprio l'umore non si alza e vedete nero, beh, non sempre il male viene per nuocere. Andiamo a sentire la ricerca che abbiamo tratto dal nostro portale amico Salute 24. Essere scontrosi e di cattivo umore non è sempre un male. Un attacco di malumore può infatti aiutare ad essere più riflessivi e a stabilire con maggiore accuratezza le mosse da fare per cavarsi d'impaccio dalle situazioni più impegnative. Secondo un gruppo di studiosi australiani dell'Università di New South Wales, guidati dallo psicologo Joe Forgas, infatti uno stato d'animo non al top promuoverebbe migliori strategie di elaborazione delle informazioni. Gli studiosi hanno fatto visionare a un gruppo di volontari film diversi e hanno chiesto loro poi di soffermarsi su eventi positivi o negativi della loro vita, con l'obiettivo di metterli di buono o di cattivo umore. Gli stessi partecipanti all'esperimento sono poi stati intervistati circa la loro capacità di giudicare leggende metropolitane e di fornire testimonianza su alcuni avvenimenti accaduti. Ed è emerso che chi era di cattivo umore era stato più preciso nelle descrizioni e aveva uno stile di comunicazione più concreto e incisivo. Gli stati d'animo positivi sembrano promuovere la creatività, la flessibilità, la cooperazione e la fiducia sulle scorciatoie mentali, spiega Forgas, mentre gli stati d'animo negativi innescano riflessioni più accurate e una maggiore attenzione al mondo esterno. Tratto da Salute 24. Quindi ce n'è per tutti, ce n'è, no? Per tutti. Ma sì, questo sembra un po' confermare l'idea del filosofo, del poeta, no? Il famoso poeta di Recanati, sempre un po' cupo. Cioè, Gobetto. L'immagine della persona riflessiva che quindi un po' soffre sui drammi della vita. Non lo so, sicuramente essere sempre cuor contenti e dementi non va bene. Cioè, se noi rimuoviamo tutto il malessere, facciamo finta di non stare male, è deleterio. Diverso è avere coscienza anche delle nostre difficoltà, capire il perché dei nostri problemi e poi, una volta elaborati, saperne sorridere. Sono due cose un po' diverse, giusto, dottore? Giustissimo. Dio, guarda, potrei così scrivere un trattato. Un trattato su questo un tema. Altro trattato. Un altro trattato. Alla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Voglio sapere chi è stato. Vogliamo sapere chi è stato. Bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono le pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Signor tenente, ascolti, guardi un po' se su poi giusto assomiglia a questa. Signor tenente! Sì! Siamo a cavallo. Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole! Ci sono dei suoni, non era per te la pernacchia, ma ci sono dei suoni che maestro, ci fanno. Non ho dubbi. No, lei, dottora Voledda, lei mai. Tra l'altro voglio dire che anche lui ha avuto delle proposte, no, di matrimonio. Tu una proposta. Io? Di conoscenza, ah, sì. Io vorrei conoscere la Fayel, ecco. Non per sposarla, ma adesso stiamo come scherzando. Non? Ma no, neanche a me, era uno scherzo. Ah, era uno scherzo. Sì, io sono sposata e gli ascoltatori sono sposati, per carità. Come chiedono a lei. Perché penso che sia, oltre che simpatica, anche un buon bocconcino. Wow. Però la pernacchia non era per te, no, quindi vedi, ma era un modo di dire che ci sono dei suoni che ci mettono di buon umore, come il dottor Avoledo ci diceva la colazione fuori onda, dicevamo prepariamola prima di alla sera prima almeno la tavola, perché sentire, no, i rumori di qualche cosa che succede in cucina ci attiva. Ma potremmo anche chiedere qual è il suono che ci mette più di buon umore. A te? Può avere oltre un la pernacchia? Risvolto. Ecco, infatti. Ma a me, per esempio, il fruscio del vento tra le foglie. Oh, dottora Valeria. Il rumore del mare non ha uguali. Anche. Allora, anche le no, risate, anche l'ansimare, mettono... della persona amata sul collo, secondo me. Sì, si mette di buon umore. Sì. A me metterebbe un po' l'affanno. Però sicuramente anche il suono di una risata è contagioso, ci mette buon umore, però se noi lo sappiamo... Motivo, sai, Nicoletta, per cui fanno le risate registrate durante le sitcom? Sì. Perché la risata è contagiosa. Vedi che hanno detto una banalità. Sorridete e guardatevi allo specchio, cercate di individuare se la persona che vi sta sorridendo vi sorride con il cuore oppure perché è costretta. In linea con noi abbiamo Anna Guglielmi, buongiorno, autrice del libro Il linguaggio segreto del volto. Ci guidi un po' a scoprire il sorriso vero da quello un po' di circostanza? Dato che noi dobbiamo osservare in un sorriso vero, gli occhi si illuminano, la bocca si allarga, noi dobbiamo osservare gli occhi, dobbiamo immediatamente guardare se si creano delle rughette attorno agli occhi, perché sorridendo le guance si alzano, le palpebre si... e abbiamo queste rughette, da non confondere con le zampe di gallina. Una persona, quindi, quando un sorriso è di circostanza, non è vero, non è autentico, la parte superiore del volto resta impassibile. Posso proporre un esercizio? Se avete voglia, se gli ascoltatori hanno voglia, appena hanno tempo, vanno a recuperare due foto. Prendiamo una foto in cui stiamo ridendo felici e poi la confrontiamo con un'altra nostra foto in cui in posa di fronte al fotografo simuliamo per la circostanza un sorriso. Ecco, possiamo capirlo da sole, vedremo che i nostri occhi sono diversi. Signora Guglielmi, un'indicazione anche per i nostri ascoltatori che spesso noi nelle fotografie risultiamo sempre un po' con quella faccia un po' stiracchiata, soprattutto quando proviamo a sorridere, ma una ricerca che lei mi ha suggerito dice la parola giusta per avere dei sorrisi fotogenici, insomma dei sorrisi belli da vedere anche in foto, ce la svela? Sì, questa è una grossa azienda americana di componenti e le macchine da fotografia, hanno studiato che la parola giusta non è cheese, che vuol dire formaggio, quella che noi usiamo spesso, bensì la parola usata dai francesi, ouistiti, che poi ouistiti vorrebbe dire sono delle piccole scimmiette minuscole della foresta amazzonica. Pronunciando ouistiti, ecco, la bocca si attese con un sorriso che sembra essere il più simile al sorriso vero. Allora, Wistiti, la saluto, grazie alla signora Guglielmi per essere venuta con noi, ricordo il suo libro che è molto interessante, Il linguaggio segreto del volto, edito da PM. Buona giornata. Grazie anche a voi. Allora, un ascoltatore, Claudio da Varese, mi scrive: a prescindere da quello che mangio, il mio umore è molto influenzato dal meteo, ho bisogno di sole, fortuna che faccio il pilota, dopo 10.000 piedi arriva sempre il sole. Dottora Voledo, questa è per lei. Il sole non lo possiamo fare tornare, non tutti possiamo fare il pilota, ci sono delle erbe però di cui abbiamo parlato tante volte che aiutano un po' il nostro umore indipendentemente dal sole e dalla pioggia. Sì, per chi non può andare a vivere alle Maldive deve per forza ricorrere degli aiuti. Per fortuna il mondo dei rimedi naturali è molto ricco da questo punto di vista e c'è una pianta notissima che è l'ipericum perforatum, è una pianta che è la sua efficacia nel risollevare l'umore sancita da diversi studi scientifici vale la pena di acquistare in farmacia o in erboristeria le compresse di estratto secco titolato in ipericina allo 0,3%, questa ha un'efficacia interessante. Già pronunciarlo facciamo fa ginnastica facciale. Fa sorriso e si assume per diverse settimane, una o due capsule al giorno, effetti assolutamente dimostrati. Ma anche il magnesio è buono, vero? Il magnesio è un formidabile regolatore della sfera nervosa e anche neuromuscolare. Infatti. È un minerale che bisogna mettere nell'acqua del rubinetto in grande dosaggio perché serve a tutti. Sì, sì, io lo uso. Antistress. Allora, io tra l'altro so che tu segui i consigli di questa dottoressa, sì. Che ha un nome che sembra giapponese, Akimova, ma in realtà è russa. La dottoressa Johanna Akimova è russa. È russa, è molto brava. Sì, non sono consigli che servono al buon umore, ma anche, nel senso, sono consigli che servono per la ginnastica facciale. Allora io vorrei che tu facessi poi un video, perché noi non abbiamo tanto tempo. Io voglio salutare. Ecco, dove tu ci metti tutti gli esercizi. Sì, perché lo dice, ridere fa venire le zampe di gallina. Dipende da come ridi. Ci sono modi anche di muovere il volto che invece che fare invecchiare il viso lo fanno ringiovanire. Io li faccio sempre tipo la mummia. Esatto. Allora saluto la dottoressa Maria Giovanna Luini, per chiudere in bellezza, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che ha consultato per noi il libro della ricerca che migliora la vita. Dottoressa Luini, sappiamo che per ridere, per farci tornare il buon umore, bisogna anche un po' soffrire, muoverci. Noi abbiamo un minuto di tempo, vogliamo che lei ci dia una notizia che ci fa tornare il buon umore. Buongiorno a tutti, il buon umore viene quando facciamo attività fisica. Dopo 2 settimane di esercizio fisico medio ma regolare, le nostre endorfine, cioè gli ormoni del buon umore, aumentano. Tanto per dare una curiosità, dopo un rapporto sessuale particolarmente piacevole siamo felici e anche molto rilassati. Il merito è delle endorfine, che vengono prodotte proprio dal movimento e da un movimento piacevole. Quindi la morale, trombate tanto, o per se non avete un fidanzato o una fidanzata, correte. E vi saluto, grazie alla dottoressa Faiella, alla dottoressa Luini, al dottor Avoledo. Buongiorno, arrivederci. Ci ritroviamo presto qua, noi ci sentiamo domani. Correte, sorridete, camminate e sorridete, a domani.